Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Buongiorno ragazzi, finalmente venerdì, non solo perché c'è il weekend, non siamo così prosaici, ma anche perché è il giorno, come sapete, più tardi, dopo il GR delle 15, uno dei miei appuntamenti preferiti, quello con Roberto Ungaro, Leo Turrini e ospiti per Racing Team. Ovviamente dedicheremo questa prima ora al calcio, 800 24 00 24 per prenotarvi, perché abbiamo... Insomma, è una bella estate, eh? Le notizie non mancano, non facciamo così fatica a costruire le puntate. Perché adesso andiamo a Brunico. Ieri sono stato bacchettato sulle dita un sacco di volte da chi scrive. A proposito, 349-238-6666 per le vostre bacchettate, perché mi scrivevano, ma l'Inter 15 non era ancora Brunico, 15 spettatori, 15 persone, era ancora la Pinetina. Adesso andiamo a Brunico, sentiamo quanta gente c'è. Lì a vedere i primi passi di un Inter che è, in questo momento è sostanzialmente un sacco di giocatori che si dice in esubero, molti ragazzini, quindi i grandi colpi devono ancora arrivare e stanno per arrivare, perché c'è una notizia dell'ultima ora secondo la quale sarebbe finalmente concluso questo caso che stava diventando pure questo un po' barboso, quello di Borja Valero. Corvino ha parlato così, direttore sportivo a Fiorentina. Ho ascoltato anche il procuratore di Borja, che, come è successo nelle altre fasi di mercato, ha portato delle proposte, e lo ha fatto anche stavolta dicendomi che c'è una soluzione per l'Inter. Mi ha detto che c'era la volontà anche del ragazzo, la volontà del ragazzo. Sono stato chiamato dall'Inter ieri a conferma di questo, perché Ausilio mi aveva già chiamato 10 giorni fa per dirmi che c'era questa loro volontà, che era stata condivisa anche dal ragazzo e dal procuratore. Allora, la notizia di oggi ve l'anticipo prima, ma tra poco avremo un collegamento che ci spiegherà tutto. Borja Valero è fatta. Quindi siamo già oltre, arriverà all'Inter, arriverà a Brunico a giorni, tra poco ci facciamo dire quando. Sul mercato dell'Inter, la mia impressione è che in questo momento Spalletti voglia giustamente valutare i giocatori dell'anno scorso, che secondo me non sono così scarsi. Semmai pelandroni o poco attaccati alla maglia, per usare un termine, un'espressione un po' troppo aulica. Semmai demotivati, semmai fancazzisti, per usare un termine più consono, però non così scarsi come l'anno scorso è sembrato. Quindi si va sui giovani, su giovani di prospettiva, sulla valutazione di chi è già in rosa. Ad esempio, leggo che Spalletti torchia Mourinho e Miranda come coppie difensori centrali. Giustamente vuole valutare il materiale a disposizione. E poi, secondo me, su questa torta verrà messa una ciliegina per i tifosi, che sia questa Di Maria, di cui si parla, è un gran giocatore, eh? Alexis Sanchez, voce dell'ultima ora, oppure Vidal, l'ex juventino, ora al Bayern Monaco, quello che tutti ben conoscete. Di calciomercato però parleremo anche dopo l'appuntamento con il traffico, perché avremo Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, eminenza grigia del calciomercato giornalistico, e Andrea D'Amico, nostro amico procuratore. A proposito sempre di mercato e dell'altra milanese, cioè del Milan, abbiamo da farvi sentire le prime parole del Conti neorossonero, altro splendido acquisto del Milan. No, sono molto emozionato, per me è la prima volta, quasi non trovo le parole per descrivere questo momento, però sono molto felice. Tanti giorni prima di questo momento, come li hai visti? Sì, ci sono stati dei momenti intensi, notti abbastanza insonni, però finalmente tutto finito e spero di iniziare presto questa avventura. Così Conti dunque, che dall'Atalanta passa al Milan, uno dei grandi protagonisti dello scorso campionato. Uno degli altri argomenti interessanti di cui parleremo, così vi faccio un resumé degli argomenti di oggi, prenotate per le vostre chiamate 800 24 00 24. Dopo la borsa andremo a Firenze, che è la piazza più bollente del momento, dove pare siano tutti in uscita. Eccolo qui, è già arrivato Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport. Ciao Carlone. Presente. Ciao a tutti. Io ho un sacco di domande da farti. Ho un sacco di domande per te. Sono qui per rispondere. Non sì. Solo tre, come diceva Ligabue. Sì. Allora io comincio. Multipli. Sì, multipli. No, la prima è. Allora, Borja Valero, notizia di oggi all'Inter è fatta. Ma ufficiale no, però. No, beh, ufficiale, però molto ufficioso. Lo attendono domenica ad Appiano. Però sì, dai no, non nascondiamoci abbastanza dietro a un dito, ma è chiaro che lì finiva, quindi si trattava di aspettare un po' di tempo. È il primo colpo di mercato dell'Inter. Senti, voglio condividere con te invece la mia sensazione di base, di fondo sul mercato dell'Inter. Sì. Cioè, sì, in questo momento Spalletti giustamente sta valutando chi ha a disposizione, cioè i giocatori dell'anno scorso che non erano così scarsi come sembrava, secondo me. Direi. Sono d'accordo. Hanno fatto molti fancazzisti, e ripeto la brutta parola che ho detto prima, si sono comportati professionalmente male, tutto, ma non sono così scarsi, quindi Spalletti giustamente li valuta. Io dico che era anche sì. Una tela, mancavano dei passaggi sì. fondamentali, dei nodi fondamentali, perché praticamente era incompleta la rosa. Questo è indubbio, questo è indubbio, Carlo, e verrà e quello poi manda a scatafascio le stagioni. Questo è indubbio e verrà completato, verranno sciolti questi nodi. Però sta valutando questi giocatori, mi sembra che si guardi con grande interesse al mercato dei ragazzi giovani di grandi prospettive, ma anche di grandi costi, perché questa è la nuova moda, così, la nuova tendenza, il nuovo trend del mercato. Si va a caccia di giovani o giovanissimi, sperando di pescare quelli giusti. E poi per verrà messa per l'Inter c'è anche un problema legato al fair play, perché sì, quelle spese sì. non vanno nella lente del fair play, sì. E quindi l'Inter su quel fronte può spendere, tu resta vigilata. Può spendere, siamo d'accordo, questo lo sappiamo, è un problema presente e risolto. E poi la mia ultima sensazione generale sul mercato dell'Inter, poi facciamo i nomi, è che alla fine verrà messa la ciliegina del nome che illumini i tifosi, che faccia accende un po' la fantasia dei tifosi. Si parla di Maria, di Alexis Sanchez, addirittura di Vidal. Tu hai questa sensazione o hai qualche altro nome da aggiungere? No, non sarebbe serio aggiungerne altri, perché abbiamo già tanta carne a cuocere. La sensazione condivisa è che appunto l'Inter cercherà un grande colpo. Speriamo che sia funzionale, anzi io ho la certezza che quest'anno sarà funzionale il progetto tecnico, mentre l'anno scorso ciò non era venuto, era un po' una collezione di figurine. E quindi quei nomi che tu hai fatto sono tutti verosimili. Speriamo diventino veri. Tutti verosimili. No, tutti come candidati, poi tra questi ne arriverà uno, sì, ne arriverà uno. Secondo te è più probabile quale potrebbe essere anche il più funzionale al progetto di Spalletti? Tu sei partito da una premessa che Spalletti adesso deve studiare i suoi, esatto, deve studiare quelli che ha. Io ho una sensazione molto netta che il mercato dell'Inter nascerà ad agosto, sarà un mercato agostano. Sì, questa sensazione quindi ce l'ho anche, ma per questa ragione, cioè perché deve valutare appunto chi ha a disposizione, perché, e poi perché magari dovrà sacrificare qualcun altro. Esatto, è una rosa attualmente anche troppo ampia, insomma esami in tempo di maturità, esami per i giocatori dell'Inter. Carlo, aspettaci un attimo, traffico, torniamo subito, abbiamo un altro ospite che ben conosci e tra l'altro con cui sei stato, che hai visto ieri per intenderci al corso di mercato dell'Hotel Gallia. No, ma la faccio breve. Andrea D'Amico sarà con noi subito dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, caro Laudisa, prima di andare al tuo amico Andrea D'Amico, con cui faremo vari discorsi di mercato, visto che abbiamo parlato a lungo di Inter, abbiamo strappato con le unghie e con i denti ai collegamenti di Mediaset Premium incessanti Marco Barzaghi che ha Riscone. Ciao Marco. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Scusate per il ritardo. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Senti, hai scritto, mi sembra che tu abbia twittato a conferma di tutto quanto, Borca Valero è fatta, Carlo Laudisa ci dice ufficioso, ma comunque, quando arriva? Arriva, adesso bisogna solo capire quando riuscirà a fare le visite mediche, se già tra oggi pomeriggio, ma mi risulta difficile perché il dottor Volpi era ancora qui, più probabilmente domani mattina, e quindi salirà poi in ritiro domani sera. Quindi, sì, primo, quindi arriva subito, ma arriva, primo è già in macchina. Rinforzo finalmente per Spalletti. Ma sì, vabbè. Ascolta, ieri abbiamo un po' polemizzato con qualche ascoltatore che poi mi ha scritto un sacco di messaggi perché abbiamo fatto collegamento con Di Maro che è in attesa dell'invasione dei tifosi del Napoli, erano in 5.000 a salutare il nuovo Milan per varie ragioni. E ho detto a salutare l'Inter al primo allenamento in 15, non erano a Riscone ma erano ancora alla Pinettina, però tant'è. Quanta gente c'è a Riscone di Brunico? A Brunico possiamo, adesso non ho il totalizzatore, però contarli uno a uno, però ci saranno un 300-400 persone per questa prima mattinata, però è già previsto da sto pomeriggio a tutto il weekend, la prossima settimana è tutto esaurito, quindi gli organizzatori dicono 15.000 presenze, quindi 15.000 presenze nel corso del ritiro in totale, insomma, no? Ovviamente. Beh, ti dico, gli hotel sono tutti pieni, quindi gli hotel sono tutti pieni, non si trova proprio veramente un buco, quindi vabbè. Rimane un affare, rimane un grande affare quello dei ritiri estivi per le squadre di calcio. Ciao Marco, grazie, io ti lascio ai collegamenti, ai tuoi collegamenti con Mediaset Premium. Tu hai qualche ritiro, Carlone? Non credo. No, ma che ritiro, noi siamo qui incatenati, incatenati tu al desk e io al microfono. È chiaro. Senti, comincio ad anticipare uno dei temi, io ti confesso sono stufo, spero sia la parentesi, la scrittura finale. Ultime condizioni per Donnarumma, 4 anni di contratto e non 5, quindi limato un anno di contratto. Rimane 1.000.000 per il fratello Antonio che gli farà da vice, quindi via Storari, Antonio vice babysitter del ragazzino. Un'unica clausola rescissoria invece di due, limata anche questa, 80 milioni di euro, e per dirla in soldoni, nessuna stecca prevista per Mino Raiola al momento della cessione del giocatore. Punto, amen, firmiamo o no? C'è un patto di segretezza tra le parti, per cui magari più avanti a firma venuta scopriremo altri dettagli, però evidentemente un lieto fine. L'ultima volta che ho parlato con voi credo che mi fossi proprio dilungato su questo aspetto, mentre sembrava che dovesse essere impossibile questa firma. Io ci ho sempre creduto, anche la Gazzetta ci abbiamo sperato, perché la razionalità portava a far credere che era interesse del Milan, ma era interesse e voglia del giocatore, che non ha mai inteso tradire, nonostante ci fosse quella offerta da 13 milioni. Sì, questa è una cosa che comunque non è che rimane gratis, secondo i 13 andrà a prenderli tra un po', intanto rimane qui a titolare. Ma è meglio così, ma è meglio per tutti, è meglio per tutti, anche per Raiola secondo me. Sì, ma anche secondo me. Secondo me non ha mai creduto che andare via subito fosse la scelta migliore. Il dovere professionale gli imponeva però di cercare il meglio per il proprio sito. Poi che si è demonizzato Raiola perché ha quella faccia un po' No, io non voglio demonizzare nessuno, anzi se ti posso dire, per quel poco ci ho parlato un po' di volte, ma per quel poco mi è pure simpatico così, ma è chiaro che è uno che le sa tutte, è chiaro che è un furbacchione, non le manda a dire eccetera eccetera, però insomma non posso dire sia uno di quelli che così a pelle. No, ma è il mondo del calcio che ormai va così, poi andare lì per ci poter dare la sua testimonianza, perché comunque sia i procuratori bisogna fare in modo, bisogna aiutarli a essere il più leali possibile. Ma sì, e sì, di professionisti bravi ce ne sono in giro, teniamoci cari. Sì, sì, sì, sì. Ascolta, Juventus mi sembra mercato conservativo, no? Quello della Juventus. No, no? Conservativo no, attendista. È un po' quello che abbiamo detto prima per l'Inter. Per motivi differenti, la Juve i soldi li ha, però deve ricevere una rosa già competitiva e quindi non può sbagliare, ha obiettivi di altissimo livello che evidentemente meritano concorrenza forte e quindi la Juve deve giocare la partita di poker. La Juve deve innanzitutto risolvere il primo problema, che è quello dell'addio improvviso di Dani Alves, quindi ha bisogno di un destro. Sì. E sarà Danilo, no? No, non ne ho la certezza. No. È un giocatore che piace, ha un problema extracomunitario. E lo so che è extracomunitario. Allora, adesso qui c'è un'altra cosa. Ovviamente non vorrei che si equivocasse, il problema è riferito al fatto del no, lo so, è che del regolamento extracomunitario, c'è Douglas Costa che interessa, eccetera. Vuoi salutarlo tu, il nostro amico Andrea D'Amico? È da un sacco di tempo, non lo vedo. Ciao Carlo! Non vi vedete dalla bellezza di 10 ore, ieri siete stati tutti e due a Milano all'Hotel Gallia a fare questo corso. Ma poi non ci siamo sentiti, dai. Ah, vabbè, allora D'Amico, una lontananza grave. Allora, posso chiedere, Andrea D'Amico, ma è l'ultima volta, giuro, che dimmi. Vado sul caso Donnarumma, perché non ne posso più, e gli ascoltatori, se mi mandano in quel posto, hanno ragione, però io sono curioso. Raiola ha vinto o ha perso? Ma guarda, alla fine quando uno fa gli interessi del suo giocatore vince sempre, perché comunque non è che la gente corra una corsa diversa da quelli che sono gli interessi del suo giocatore. Ma l'interesse del suo giocatore però in senso lato, cioè l'interesse del suo giocatore non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della... complessivo. Io penso che comunque questo sia una buona cosa per tutti, per il Milan che comunque mantiene la proprietà di un giocatore giovane che ha valorizzato lui, che ha prospettiva e che comunque ha dimostrato di essere già di un grandissimo livello. Sì. E il giocatore, perché comunque si trova con un contratto importantissimo e con la maglia numero uno, certo, del Milan per tanti anni, e la gente che comunque ha la possibilità di avere un giocatore così giovane che già stipula un contratto così importante. Quindi penso che siano tutti felici, i tifosi sono contenti perché comunque Donnarumma è rimasto. Non dimentichiamo che comunque per il Milan sarebbe stata una perdita patrimoniale importante. Esatto, quello è appunto. Perché comunque in questi, quando succedono queste cose qui, magari uno si mette la società che detiene le prestazioni del giocatore, magari se commette l'errore di dire no, ma è già mio, quindi io lo Sinto no, ma sarebbe stato comunque in Milan, diciamoci la verità, aveva il capo al collo, quindi potevano tirarlo dove volevano e mi sembrano condizioni super ereditato, ereditato. Visto che non vi siete sentiti colpevolmente ieri sera, Carlo Laudisa, vuoi chiedere qualcosa pubblicamente ad Andrea D'Amico? No, vabbè, le sue trattative ormai, insomma, ieri ci parlava di Giovinco, uno dei suoi colpi che sta continuando a fare bracegli a Toronto, no? Come sta Giovinco? Ha fatto due gol, una doppietta nella partita vinta 3-1 contro Orlando. Io l'ho vista notte tempore, per così dire, dall'una e mezza di notte in avanti, e mi è dispiaciuto un po' vedere sono stato felice di vedere una grande prestazione di Sebastian, che è sicuramente il giocatore più importante dell'MLS, e quindi mi stupirei che anche quest'anno non vincesse l'MVP. Però di là ho visto purtroppo tristemente Kakà un po' abbandonato se stesso. Vabbè, Kakà, sì, tristemente è l'avverbio corretto, poi possiamo attaccarci quello che vogliamo. Ma com'è la vita di Giovincola? È trattato da re, lo ferman per strada? Guarda, Carlo, è molto contento. È veramente coccolato dalla comunità italiana, che non dimentichiamo è la seconda comunità italiana all'estero dopo New York, e quindi praticamente tu hai a Toronto, se vuoi non parli mai inglese, però quindi, sono molto quindi, bene comunque a livello di vita e tutto. Non ho dubbi. Senti, te la faccio io la domanda, se non la udisa, Crisci, tu lo riporti in Italia o no? No, assolutamente, perché comunque Mancini l'ha messo al centro del suo progetto di ricostruzione della squadra. Adesso è capitano dello Zenit, sì, quindi sta bene, è dov'è. Chiaro che devono migliorare la squadra e quindi ripartono da Crisci. Sì, e invece vado da Carlo Lodisa per una questione di oggi che raccontiamo ad Andrea D'Amico, che saprà già ovviamente. Lucci, agente di Cuadrado e di Bertolacci, è a casa Milan per Bertolacci, essenzialmente, che si dice che torni al Genoa. Mia esperienza non fortunatissima, per usare un eufemismo. Però sì, c'è anche una vocina che dice che Cuadrado potrebbe passare al Milan liberando il famoso posto di extracomunitario. Fantascienza, fantasia? Guarda, il discorso è questo, che sotto traccia c'è evidentemente la vicenda di De Sciglio. Secondo me al Milan e a Montella farebbe molto piacere fare uno scambio magari alla pari o con una percentuale, con un contratto pari, mi sembra tanta roba, alla Juventus credo che non interessi proprio, allo stesso Cuadrado credo che non piaccia l'idea di andare via dalla Juve. E oggi parliamo di un'offerta dell'Arsenal. Sì, ho visto. Seguiamo più quella traccia. Non vedo prospettive per questo scambio De Sciglio, ma non solo io. A me De Sciglio piace molto. Sono convinto che la Juventus farebbe molto bene, però scambiare la pari mi sembra tanto. È un problema di valutazione, è un problema di valutazione nel senso del prezzo. Sì. Ma che Allegri voglia De Sciglio notorio. Non c'è dubbio. Vi chiedo un'ultima cosa ad entrambi, amici miei, Andrea D'Amico e Carlo Laudisa. Allora, Firenze sta smobilitando, c'è la dismobilitazione, grande contestazione, argomento di cui parleremo tra poco. Si è sparsa anche questa voce, Bernardeschi, i nomi li sappiamo, Borca è andato, Bernardeschi è sulla via di Torino, Kalinic vorrebbe andare al Milan, ma si è sparpagliata questa vocina su Chiesa, cioè sarebbe l'ultimo gioiello di famiglia che viene messo sul mercato, ci credete o no, Andrea? Ma guarda, quelli che hai detto tu prima sono tutti degli affari in via di conclusione, sì, abbastanza sicura, per cui non serve neanche fare tanto futurismo, il realismo la cosa che si applica in maniera migliore. Per quanto riguarda Chiesa, penso che abbia bisogno ancora di un'ulteriore valorizzazione, sarebbe un peccato privarsi subito di un giocatore che promette così bene. Mi sembra che il verbo sia quello giusto, promettere, perché noi siamo troppo veloci a battere quelli che magari fanno un anno così, ma insomma lasciamo che questi giovani almeno facciano ma questo è naturale, hai ragione da vendere, e quello è il posto giusto, come ha detto anche suo papà. Grazie Andrea, ciao, un abbraccio a voi, ciao. Carlo Ladisa, dimmi la tua Chiesa. I Della Valle hanno affidato a Corvino un progetto delicato ma entusiasmante, quello di puntare sui giovani, quindi Chiesa non si sposta, questo è certo. Arriveranno altri giovani, perché comunque se non è Politano o è Orsolini al posto di Bernardeschi, e lì poi c'è il Ciolito Simeone al posto di Kalinic, questi sono, mentre Saponara prenderà il posto, questo è stato già acquistato, il posto di Porcavallero. Questa è la traccia tecnica viola. Grazie Carlo. Grazie a voi. Alla prossima, Carlo Laudisa. Dunque, ci fermiamo per la borsa. Poi andiamo proprio in questa piazza che è la più bollente del momento, cioè Firenze. Ad avere i soldi di Inzaghi. Ad avere i soldi di Pippo Gol. Ad avere i soldi di Inzaghi. Ok, Inzaghi. Ad avere i soldi di Pippo Gol. Chiudi. Tutti convocati. I vulcani sono montagne arrabbiate? Gli antichi romani facevano il bagno nel Tevere? I paesi sono tutti uguali o tutti diversi? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Torna a Terra in Vista con l'Italia spiegata a mio figlio. Parleremo delle tante diversità dell'Italia attraverso le città, i fiumi, le coste, le montagne, le isole. Cercheremo di capire insieme perché l'Italia è un paese davvero unico. Insegniamo anche a fare la pizza, quindi? No, dai, pizza e mandolino no. Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio, con Telmo Pievani e Federico Taddia. Dal 9 luglio, ogni domenica alle 12, su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Tutti convocati. È convocatissimo Franco da Perugia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Grazie della convocazione. Ma grazie a lei. 800 24 00 24, lo ripeto per tutti quelli che vogliono intervenire. Franco, dica. E niente, io volevo fare un po' una polemica da interista, perché sento sempre fare pulci all'Inter su tutto, come adesso sulla squadra che deve essere, che la metà deve essere venduta perché sta in subito. Ma il Milan che ha comprato 8 giocatori, quanti ne ha venduti? Il Milan che ha comprato 8 giocatori ne deve vendere qualcuno, perché sono in 50, sono in 35-36. No, qualcuno lo venderà, ci sono diversi esuberi, però il Milan non ha i problemi di fair play finanziario che aveva invece l'Inter, che pure ha giocatori in esubero e che pure dovrà sfoltire la rosa che ora Spalletti sta valutando. Franco, questo è il punto. È chiaro che il Milan, ripeto, se togliamo il fancazzismo dell'anno scorso, la figuraccia professionale che i giocatori hanno fatto l'anno scorso, aveva una rosa già nettamente superiore a quella del Milan, parliamoci chiaro. Nicola, provincia di Rovigo, buongiorno. Sì, buongiorno. E io volevo avere una, magari anche una vostra opinione in merito alle parole di ieri di Boban, che ha un po' confermato le teorie che ho anch'io in testa, nel senso, sì, grandi colpi del Milan, però parliamo di buoni giocatori, non di grandi giocatori che soprattutto devono essere calati in un campionato italiano che è totalmente diverso magari da quello tedesco. Vedi Rodriguez, vedi Calhanoglu, Calhanoglu è un eccellente giocatore, poi se lei mi dice che non stiamo parlando di Messi, Ronaldo eccetera, questo è tutto vero. Se lei mi vuole dire che, continuo a pensarlo, manca ancora il giocatore chiave che è tipo alla Biglia, anche questo è vero, però insomma mi sembra sia una buona base di partenza. Ad esempio l'ultimo arrivato, cioè Conti, è stato uno dei grandi protagonisti della stagione scorsa ed è stato pagato mica poco, 25 milioni in cassa dell'Atalanta. Quindi se parliamo di supercampionissimi per tornare a vincere, cioè a stile vecchio Milan, ok, però mi sembra sia stato fatto e si stia facendo un eccellente lavoro e funzionale ad un progetto. Quindi non penso ci siano grandi colpe da avanzare in questo caso alla coppia Mirabelli Montella, non credo proprio, Fassone, al trio Montella Mirabelli Fassone. Se contestiamo il Milan, ma figuriamoci cosa possono dire a Firenze. Sentite cosa dicono. Ragazzi, area di tempesta a Firenze, ma come potrebbe essere diversamente? Chi conosce profondamente la piazza fiorentina e sta lì? Enzo Bucchioni, ciao Enzo. Buon pomeriggio, ciao Enzo, Firenze ribolle di rabbia, come potrebbe essere altrimenti, al di là del comunicato demagogico della Valle, se qualche fiorentino vuole la Fiorentina, ma che fiorentini, cioè, quindi, quel comunicato non vuol dire nulla. Sì. No, mi fa sorridere perché sono 15 anni che stiamo a parlare di fiorentini che devono prendere la Fiorentina, non c'è neanche mezzo. Ma sì, ma come di milanesi che prendono l'Inter, i milanesi che avevano l'Inter e il Milan l'hanno venduti, cioè, ragazzi... Parliamo di globalizzazione, dai, facciamo i bravi. Parliamo di nulla, insomma. Sì, no, però nulla. Mi confermano che Diego Della Valle è fermamente intenzionato a venderla a Fiorentini e non Fiorentini. Il problema è che le cifre che chiede lui, 250 milioni di euro, non troverà nessuno che le sborsi. Quindi tutto il mondo è in vendita, ci rivende chi lo compra. Bravo, esatto. Ascolta, però, in attesa di vendere la Fiorentina, chi vuoi che ti venda? Dimmi. No, i giocatori che ci sono. No, ma voglio dire, infatti sono tutti in vendita. Tatarusano, che vuoi? Dimmi. No, dimmi che compro, dimmi. A questo punto dimmi che resta, perché dimmi che cosa il povero allora, Pioli che su chi lavora, che giocatore avrà? Giochiamo io e te. Sì, ma guarda, gli intoccabili ci sono solo due giocatori, per quanto ne sappia io, il programma della Fiorentina sono questi: Chiesa e Babacar, due ragazzi del vivaio. Chiesa assolutamente intoccabile, è il gioiello nato in questa stagione, che tutti vorrebbero, ma la Fiorentina non vedrà. Sì, è l'ultimo poi, gioiello di famiglia, dai. Sì, l'ultimo gioiello di famiglia, magari riparliamone fra due anni, perché come dicevamo in vendita ci siamo tutti. E poi c'è Babacar, che è un altro giocatore che piace molto ai tifosi, simpatia innata. Della cantera viola, quindi resteranno questi due. Il resto, secondo me, sono tutti vendibili. Se arriva qualcuno, pagare e vedere Cammello immediatamente. Pagare e vedere Cammello, la solita storia. Però, comunque, comunque Don Borja Valero, ovviamente, è andato oggi all'Inter, come era scritto da tempo. Bernardeschi andrà domani o dopo, o un altro giorno, ma presto, alla Juventus. Sì. Kalinic andrà al Milan, giusto? Confermi. Forse sì, anche se Corvino ha detto 100% Kalinic resta. Sì, ma abbiamo questa voce. Chiamato dal Milan per accettare una loro proposta che non ho voluto ascoltare né mettermi a tavolino, perché ho detto a loro con sincerità di pensare ad altri attaccanti, perché noi non vogliamo privarci di Kalinic. Sì, poi vediamo, a mio parere Kalinic sarebbe perfetto per il Milan e per il gioco di Montella, cui non è assolutamente funzionale Bacca, che è rimasto in rosa, sì. Vediamo lì che succede. Enzo, dammi un attimo di tregua, il traffico in linea, poi torniamo sui Viola e su appunto un Chiesa blindato, nonostante voci fantasiose, ne abbiamo parlato prima, che lo vedrebbero nei desideri di De Laurentiis, desideri proibiti. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Enzo Bucchioni, torniamo nella brace della Fiorentina, che non è la bistecca, ma del Franchi. In tutti i sensi. Oggi siamo a 40 gradi. Bravo, esatto. I tifosi escono fuori la sera, il pomeriggio no. Sbugano la sera e vanno a cantare Della Valle, eccetera, eccetera. Non avete anche capito. Minimo storico dell'amore tra Della Valle e la Fiorentina, ma qualcuno arriverà, è solo gente che va via. Cioè, no, guarda, qui il problema della Fiorentina è la comunicazione, perché tutte le squadre vendono i giocatori. Guardiamo il Milan, il caso Donnarumma, che può essere simile a quello di Bernardeschi, però la gestione della Fiorentina è completamente sbagliata nei tempi, nei modi. Avete fatto sentire Corvino, che potrebbe essere mio zio, mio cugino, mio fratello, forse gli posso consigliare, ma non parlare, ma stai zitto, perché nel giro di 48 ore ha detto delle cose puntualmente smentite da tutto, dagli eventi, dai giocatori, dalle notizie. Quindi è una gestione mediatica e che poi fa saltare per aria tutti, sì, perché sì. Che Borca Valero volesse andare via, io lo so da otto mesi. Ma insomma, poi dai, WhatsApp, mica WhatsApp, i messaggi vocali mandati agli amici. No, ma il discorso, vabbè, non che sia l'unico, da questo punto di vista. Purtroppo i tifosi abbuccano ancora. Ho capito, ma abbuccheranno anche quelli di Roma, a cui Monchi ha detto, al 100% Rudiger non si vende. Ma la Fiorentina, questi tre giocatori non l'ha messi neanche nei manifesti per il ritiro di Moena, quindi non li stampano neanche dal giorno alla notte. L'ultima cosa che ti voglio chiedere riguarda Chiesa, per l'appunto. Siamo tutti d'accordo, l'ha detto anche suo papà, il vecchio Enrico, che rimarrà a Firenze perché deve crescere, non è questo l'anno del mercato, eccetera. Tra l'altro, particolare che può essere banale finché vuoi, è il testimonial praticamente della nuova maglia della Fiorentina, quindi certo. io credo sia un ulteriore indizio che fa la prova che resti, no? Assolutamente, guarda, nel calcio ti dicono sempre quello che succede oggi domani può essere confutato, viceversa può succedere sempre di tutto. Questo, metto la mano sul fuoco, la famosa mano di romana memoria, Chiesa resta a Firenze, ci resta quest'anno di sicuro, ma secondo me ci resta anche l'anno prossimo. Poi vediamo se ne trovano altri 10 per giocare a pallone, tu dici. Sì, no, ma anche perché dietro ha una famiglia che lo consiglia bene, c'è Enrico, sa benissimo che è un ragazzo che ha 20 anni, deve ancora maturare, lo può fare qui tranquillamente, poi avrà tempo di andare in una grande squadra e di sicuro ci arriverà. Questo è il discorso corretto da fare, cioè secondo me questi ragazzi, vale anche per Donnarumma, vale per tutti gli altri, vale per i baby fenomeni, eccetera, hanno bisogno di giocare, perché sennò li paghi un sacco e li bruci come fiammiferi. Quindi l'ideale è rimanere dove ti fanno giocare. Grazie Enzo, ciao. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao, ti abbraccio. Ciao, allora, ciao. Io faccio una digressione, ma con grande piacere, su un'altra erba che è quella di Wimbledon, con il mio amico poeta Vincenzo Martucci. Ciao. Senza, 4 big senti, 4 big avanzano senza troppe difficoltà, ma oggi è ancora il giorno di Nadal e Murray. Ci interessa soprattutto il secondo, perché oggi se lo trova davanti il nostro Fognini, ultimo italiano secondo pronostico a rimanere in corsa. Sì, è stimolante per Fognini come sfida. Obiettivamente lui una chance ce l'ha, perché Murray non è in grandissima forma, anche se ha vinto 2 match in 7-0. Una su quante, Vincenzo? Veramente difficile, dobbiamo dare un 10%, dai. Ah sì, dai. 10% glielo dobbiamo dare, perché lui ha grande talento, e soprattutto perché leggevo da qualche parte che Franco Davini, il suo nuovo allenatore, ha detto: ma perché non c'è un motivo per il quale Fognini non possa giocare bene sull'erba? Ed è vero, perché Fognini ha una qualità importantissima per l'erba, che è due: una, erba di centro basso, due, sì, è quello che si muove bene a piedi velocissimi, e quindi può compensare. Se la partita si allungherà, soprattutto, secondo me è una chance. Senti, a noi restano i dettagli, come Lorenzi, che è stato eliminato al secondo turno, che vince per la prima volta a Wimbledon a 35 anni. È un eroe, è l'esempio che bisognerebbe portare. Lui e Sara Errani sono i veri esempi del tennis italiano, perché che la Vinci, che la Schiavone, che la Pennetta, che Fognini vincessero insieme a Seppi, sono degli esempi. Gli altri sapevamo che sarebbero venuti fuori, ma Seppi, Errani e Lorenzi sono i tre grandi esempi di un lavoratore indefesso, intelligente, che è stato costruito, e io veramente mi inchino tutte le volte davanti ai loro risultati. Non guardiamo ai loro difetti, guardiamo alle loro qualità. Cioè Lorenzi è uno che a quell'età, e Lorenzi sono 4 anni che gioca veramente ad alto livello, prima non sapeva nemmeno cosa fosse il tabellone dello Slam. Questo qui, zitto zitto, si è costruito un servizio, si è costruito un gioco reale e intelligentissimo, perde solo con quelli più forti, tanto onore a Lorenzi. Sì, torna in campo anche Camila Giorgi, ultima italiana rimasta. Camila è la spina nel mio cuore. Io credo che sia in grado di battere Ostapenko, perché è vero che quando due giocatrici di caratteristiche simili si incontrano, vince la più forte. Ma io dico una cosa adesso che mi tirerà dietro, sa chi? Io sono convinto che la Giorgia è più forte dell'Ostapenko. sono veramente convinto, cioè l'Ostapenko ha vinto Roland Garros perché è riuscito a fare quello che la Georgi non riesce a fare, cioè ogni tanto cambiare, rallentare, variare, ma io credo, fermamente credo che la Georgi sia più forte dell'Ostapenko e giocando a una botta e via può anche vincere oggi. Ascolta, per chiudere Vincenzo, tornando al tabellone maschile, i quattro big abbiamo detto avanzano, quindi si avvicinano le semifinali pronosticate secondo te? Ma io qualche perplessità ce l'ho, perché Federer sinceramente ha delle brutte gatte da pelare, perché lui secondo me sta facendo un tifo pazzesco perché se la tenga in campo 5 settimane Dimitrov e perché per lui giocare contro un Dimitrov lanciatissimo che non pensa, scatenato, istintivo, non è bellissimo, anche se lo conosce, se lo ha già battuto eccetera, però adesso c'ha Zverev, Mischa, quello che gli sbutterà a rete tutto anche sul servizio, o sempre anche sulla, sul suo servizio, e quindi bene o male lo conosce da tanto tempo, lo terrà a bada. Anche con Dimitrov partirebbe favorito se sarà Dimitrov, ma certo un Dimitrov stanco e un po' acciaccatello, un po' provato, un po' appagato, gli piacerebbe molto. Sono molto perplesso sul match di oggi, voglio proprio vedere il match di oggi di Nadal con Khachanov, perché Khachanov è sicuramente immaturo, non pronto per questi livelli, ma se comincia a picchiare con quel dritto e quel servizio soprattutto, vediamola la partita. Djokovic non sono convinto, Djokovic secondo me è un black. Ce n'è uno che ti convince. Secondo me Djokovic è un black. Allora, il più professore, convincente paradossalmente è stato Murray. Allora professore, sì, professore, allora lo scopriremo vivendo, come dice il poeta. Grazie Vincenzo Martucci, ti seguo sul ben noto sito Sportsenators. Ci fermiamo per il GR, ma torniamo con Racing Team, ragazzi, state con noi. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Dal 9 luglio, tutte le domeniche, alle 19.10, su Radio 24. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Racing Team. Guardate, io se fossi un ascoltatore metterei la sveglia a quest'ora del venerdì, perché c'è Racing Team, anche se oggi è una puntata, fatemelo dire, listata a lutto. Roberto Ungaro e Leo Turrini sono le nostre voci, Roberto Ungaro per il moto mondiale e Leo Turrini per ovviamente la Formula 1, che è in pista a Zeltweg, mentre per le moto è tempo di vacanza. Listata a lutto, Roberto Ungaro. Ciao a tutte e due intanto, ragazzi. Ciao Carlo. Listata a lutto perché ieri il nostro amico Marco Lucchinelli, anzi l'altro ieri, il nostro amico Marco Lucchinelli, che è stato nostro ospite non più tardi di 10 giorni fa, tra l'altro, che è stato il compagno di telecronaca di Roberto Ungaro per Mille Mondiali, ha avuto questo dramma che ha colpito il figlio e... destino bastardo, sempre su due ruote, Roby. Sì, ancora una volta un incrocio, un Raiden poco tempo fa, purtroppo Cristiano, anche lui contro la macchina e moto ci ha lasciato, e intanto un abbraccio a Marco perché gli vogliamo stare tutti idealmente molto vicini. Cristiano, amato da tutti, faceva l'istruttore in pista e corsi di guida, era sempre in moto, sempre il sorriso. Quello che dico io è ancora una volta un incrocio su una strada normale, i piloti sono lì che ci lasciano e non in pista, cioè perlomeno in pista accade molto molto di rado. Questo deve far riflettere un po' tutti noi e avere degli occhi anche di fianco, quattro occhi, perché bisogna essere consapevoli che si dipende dagli altri, il motociclista questo lo sa e quindi deve avere per questo motivo più testa. Deve avere più testa, perché non ha su due ruote, e noi che quelle due ruote le usiamo tutti i giorni, lo sappiamo, non è che ci sono tanti margini come quelli i signori che vanno su quattro, Turrini. Non voglio darle colpa alle quattro, però il vero problema, Carlo, sai cos'è adesso? Si chiama telefonino, perché guidando in moto vedi di quelle cose, cioè la gente usa troppo il telefono in auto, e secondo me il problema si risolverà quando il telefonino stesso sarà inibito, cioè raggiunti pochi chilometri orari deve impedire tutta la messaggistica, la ricezione di queste cose, solo telefono d'urgenza, perché sennò il problema non si risolve. Io sono il primo, quando guido in macchina, magari a cadere in tentazione, cerco di non farlo, ma capisco quanto sia forte la tentazione di farlo, di guardarlo, di maneggiarlo, di tenerlo in mano, solo che adesso si esagera e non si può. Non è il caso di Cristiano, non voglio dire questo, io sto parlando di traffico normale di tutti i giorni, e non c'è parola per descrivere un padre che rimane senza... No, non c'è dubbio, infatti non voglio usarne, guarda, orfano, ma, esatto, guarda Roby, non voglio usarne troppe, vorrei appunto fare pubbliche condoglianze a Marco Lucchinelli e alzare una preghiera a Cristiano. Leo Turrini, ci sei? Sì, sono qui. Non sei in macchina? No, io sono telefonino. Come sempre fermo sulla Piero Cormano. Sì, dove sei in coda, quindi, in senza telefono. Sono fermo senza usare il telefono, perché c'è Vettel lungo la strada che chiede scusa a tutti quelli che passano. Voi sapete che non si fa altro che parlare di questa cosa, e quindi tra le pene accessorie inflitte al tedesco della Ferrari c'è quella che deve scusarsi con tutti gli automobilisti, non solo con Hamilton, e devo dire qui dalla coda che si è creata sulla Piero Cormano, che lo sta facendo con molta diligenza. Eccoci qui. Senti, fammi chiedere ancora una cosa a Roberto Ungaro, poi lo lascio andare in moto. Roberto, il moto mondiale è fermo fino al 6 di agosto a Brno. Brno, che è il gran premio preferito da tutti i giornalisti, per motivi che vi lascio immaginare. Tutti vogliono andare lì. Una volta, e i tempi sono cambiati, sono loro che sono venuti da noi, però è ancora, ancora un suo perché. Ancora un suo perché, no? Io ricordo che, cioè, chi vuole andare a Brno, c'era la coda fuori dai giornali, e anche chi le mode fregava niente. Comunque, dato che il moto mondiale è fermo fino a quell'epoca, quel gran premio, mercato cosa dice? Mercato è tutto fermo, perché come sai i big hanno il contratto biennale, scadenza per tutti in fine 2018. Si sentono voci di Iannone che lascia, Brivio è intervenuto, ha detto no, lo teniamo, resta per tutto 2018, mentre invece ci sono un po' di rumors. L'unico ago della bilancia è Miller, perché la Honda, nonostante lo faccia correre all'autore di Suzuka, che è una gara importantissima per i giapponesi, pare che lo lasci libero, quindi sarà lui l'unica pedina del mercato. Non è una pedina importante, però c'è, probabilmente andrà nel team Pramac al posto di Scott Redding, quindi al fianco di Petrucci. Queste sono le voci più fiere, ma è tutto fermo. Lorenzo, chissà, l'anno prossimo ha il contratto, però secondo me l'unico posto dove potrebbe andare Lorenzo potrebbe essere in Honda. Immaginiamoci che l'anno prossimo De Marquez, sarebbe un bel cambio di carte sul tavolo, però è molto molto improbabile, e se Iannone dovesse andare via da Suzuki, chissà chi prenderà. Questo interessa da vicino Leo Turrini. Roby, ci sentiamo venerdì, o ci vediamo venerdì, comunque venerdì Racing Team c'è sempre, con voi. Grazie, ciao, Roberto, Carlo, ciao. Allora Leo, in linea Giancarlo Minardi. Per me un maestro, un punto di riferimento. Vuoi chiedere scusa a Giancarlo Minardi? Ciao, hai qualcosa di cui scusarti con Giancarlo Minardi e Turrini? Sempre, io con Minardi sono in debito da 30 anni. No, ma volevo dire che fin quando lui ha avuto la sua scuderia e ne è stato proprietario, abbiamo avuto la possibilità di ammirare talenti italiani sulle piste della Formula 1. Penso a Martini, penso a Fisichella, penso a Trulli. Ecco, forse adesso che sono tanti anni che non c'è più un ragazzo di passaporto italiano sui circuiti della Formula 1, forse magari alcuni di quelli che ai tempi della Minardi dicevano ma tanto lottano sempre per arrivare penultimi o terzultimi, cominceranno a rendersi conto di cosa abbiamo perduto. Sì. Mi fa piacere riconoscerlo a Giancarlo, finché io sono ancora vivo, perché lui sta benissimo di salute, mi sentirà tranquillamente. Tocchiamo ferro. Ecco. Giancarlo, allora, Leo Turini è in coda sulla Pero Cormano perché c'è Vettel davanti che chiede scusa a tutti. Andiamo su questo argomento, che è quello che ovviamente incendia la platea. A proposito, 800 24 00 24, se volete intervenire anche a Racing Team. La sensazione, abbiamo le scuse di Vettel, pubbliche scuse di Vettel ad Hamilton, che dice sì, va bene, accetto, ma fino a un certo punto che io non ho fatto niente di male. Sentiamo cosa dice Massa sull'argomento e poi andiamo a bomba con Leo Turini e Minardi. E onestamente, un pilota che ha i titoli, l'esperienza che ha passato, tutto quello che è riuscito a conquistare, no? Come pilota, è una bravissima persona fuori della macchina anche, fare quello non è bello, quindi alla fine ha pagato anche poco di quello che doveva pagare l'ultima gara. Però penso che dopo tutto quello che è successo ha capito e spera che queste cose non succedano, e sì, una lotta calda, quello che può succedere nel modo giusto. Allora, Leo, ha pagato poco? Vabbè, la mia opinione la conosci perché ne abbiamo già parlato a lungo. Io credo, l'ho detto da subito, che Seb abbia sbagliato in quel Gran Premio Baku. Credo che la sanzione che gli è stata inflitta subito sia stata adeguata, perché nessuno lo dice, ma con i problemi che ha avuto poi Hamilton, Vettel per colpa sua ha buttato via una vittoria invece di arrivare prima, è arrivato quarto. Poi dopo so che ci sono persone, forse anche il mio amico e maestro Minardi, abbiamo appena sentito Massa, che ritengono che dovesse essere flagellato su pubblica piazza. È questo, Leo, che volevo chiedere a Minardi. Sì, possibilmente costretto anche Vettel a fare il cambio gomme alla Mercedes per tre gran premi consecutivi. Esatto. No, ma sentiamo Minardi, perché da vecchio esperto, non vecchio, da grande esperto e maestro, appunto, volevo chiederti, a me è sembrata una che Vettel sia stato ben indottrinato dalla FIA, che politicamente non si sognava nemmeno di rompere un mondiale finalmente aperto. Ma io credo che il viaggio a Parigi sia una farsa, come una farsa totale pagliacciata. Sì, è una pagliacciata, una farsa la conferenza stampa di ieri. È chiaro che passeranno, poi non passeranno gran premi, nel senso che questi due si giocano dalla prima gara il mondiale. Credo che Hamilton avrà la strada più facile rispetto a Vettel, ma Hamilton vede in Vettel il suo antagonista numero uno, quindi tutti quei abbracci, quelle pacche sulle spalle sono tutte falsità e sono emerse davanti al primo problema. Per quanto riguarda sono d'accordo che un quattro volte campione del mondo non doveva fare il gesto che ha fatto. La punizione, ci sono dei commissari sportivi, non sta Giancarlo Minardi di dire se è stata pesante o non pesante, è stata data, come diceva Leo, ha comunque preso un gran premio. Certo. C'è da dire che io personalmente avrei trattato diversamente anche il signor Hamilton, perché c'è un regolamento e il regolamento i commissari lo devono fare rispettare. Hamilton ha rallentato e ripartito nel momento che la safety car aveva già spento le luci, per cui in quel momento anche lui ha commesso un'irregolarità. E come tale andava redarguito. Questo perché lo dico? Perché io mi sto occupando dei giovani piloti italiani, in particolare per conto di AC Sport, e diamo un brutto esempio ai giovani e facciamo fatica a gestire queste situazioni, perché prendono spunto da quello che fanno i campioni. Sto parlando di 7 titoli mondiali tra l'uno e l'altro, quindi non sto parlando. No, ma chiaro. Io penso che probabilmente entrambi sono stati in parte graziati. Se l'avesse fatto Stroll, probabilmente l'avrebbero radiato, gli avrebbero ritirato la licenza. Auguriamoci che questo non vada a falsare quello che è il proseguo del campionato. Ma no, non falsare, falsare no, ma mi è sembrata una lite tra automobilisti della strada, no? In cui non si fa la constatazione amichevole. Hamilton ha fatto il furbacchione, ha fatto lo stronzetto, no? Come abituato a fare diverse volte. Sì, non è la prima volta. Non so se fosse punibile a termini di regolamento. Vettel non ha rispettato le distanze di sicurezza, però è il primo comunque fallo a gioco fermo che si vede nella storia della Formula 1. Questo è il punto. Diciamo un fallo di reazione, dei falli ne abbiamo visti tanti, lo stesso Schumacher nei confronti di Ma di reazione a gioco fermo è quello che ti sto dicendo, è fallo di reazione a gioco fermo, perché tale è stato. Poi è chiaro che di ruotate ne abbiamo viste milioni, Leo. Lasciami dire che io adoro quest'uomo inteso come Giancarlo Minardi, perché finalmente trovo una persona competente che condivide la mia tesi che anche Hamilton ha fatto il furbo e che da troppo tempo che gliele lasciano passare tutte. Ma fare il furbo è una cosa, irregolarità è un'altra. Ma secondo me anche irregolare più di una volta, ma comunque voglio dire, non mi meraviglia la mia consonanza con Minardi, perché ho memoria, una volta andammo a cena io, lui, Gramil, Tazio Nuvolari, eccetera, e fu una serata meravigliosa perché abbiamo entrambi un'età e si capiva questa grande intuizione che Giancarlo trasferiva poi sulla Formula 1. Intanto vi dico, dato che stiamo parlando di questi rissaioli da cortile, che a meno di 10 minuti dalla fine delle libere, chi è primo? Hamilton. Chi è secondo? Vettel, la differenza è un decimo. Quindi se fossero questi livelli sia in qualifica che poi in gara domenica, livelli delle macchine, dico, allacciamo le cinture, perché io sto qui in coda sulla Piero Cormano, ma temo che qualcun altro dovrà chiedere scusa anche dopo il Gran Premio d'Austria, con l'elettricità che c'è, capito? No, ma appunto. Io comunque starei molto calmo, nel senso che ho seguito anch'io le prove. Sono preoccupato di cosa possono fare domani in qualifica i due della Mercedes quando daranno il famoso overboost nel giro secco. Indubbiamente ci sono due macchine che sono Mercedes e Ferrari al di sopra di tutti, anche se sta recuperando velocemente anche la Red Bull, che è penalizzata dalla sua power unit, però credo che ci sia una lotta domani ed è determinante secondo me per Vettel riuscire a stare in prima fila, indipendentemente primo o secondo, l'importante sarebbe rimanere in prima fila. Sì, la pensi così anche tu, no Leo? È chiaro che partire da davanti... Allora la sensazione che abbiamo un po' tutti è che sul giro secco da qualifica la Mercedes, io non so se sia il bottone magico, quello che è, comunque abbia un margine. L'abbiamo visto anche nella fase della stagione nella quale poi la Ferrari era più competitiva in gara. Diventa indispensabile sicuramente che Vettel al via sia lì accanto al nero, in modo poi da potersela giocare sul passo gara, eventuali strategie e tutto il resto, anche perché ormai tutti qui noi fermi sulla Piero Cormano in coda, fa un caldo terribile, abbiamo capito che Bottas, pagato a voucher dalla Mercedes, viene utilizzato al fine esclusivo di, diciamo così, danneggiare la Ferrari, perché è esplicito. La domenica di Baku ne abbiamo già parlato qui a tutti i convocati, addirittura Hamilton si è permesso nel finale via radio, questo vorrei il parere di Giancarlo, di invitare i suoi capi al muretto Mercedes a rallentare Bottas, perché gli avrebbe permesso di arrivare addosso a Vettel, cioè io te la dico, però Leo, io sarò anche sbaglierò pure, sarò estremista, però secondo me il gioco di squadra in Formula 1 non è peccato mortale. Che chieda alla squadra di rallentare il suo compagno che teoricamente è ancora in lotta per la vittoria, perché così Vettel avvicinandosi gli poi dovrà andare più piano. Ma io vorrei l'opinione di Minardi all'ottava gara della stagione. Allora Giancarlo, ti ricorderai quello che ci disse Tazio Nuvolari in quella famosa cena, no? Ascoltami Leo, io credo che sia differente il fatto del gioco di squadra al fatto di danneggiare un pilota, che in quel momento Hamilton chiedeva di ostacolare l'avversario. Non è un fatto io ti lascio passare perché i punti che guadagni sono in vantaggio della squadra e tua per vincere il mondiale, dove la squadra ha la priorità, per cui la Mercedes e la Ferrari hanno la priorità sui piloti e decidono. Nel caso specifico di Hamilton, come stava facendo lo scorso anno ai danni di Rosberg, voleva che rallentasse per danneggiare l'avversario, e quindi non è più un gioco di squadra dove dici io parto in prima fila e tu mi copri le spalle. No, tu non mi copri le spalle. Lui chiedeva via radio che frenasse il recupero di Vettel. E credo che sia, che sia diverso da dire gioco di squadra. Capito? Meno male che c'è Minardi, cosa posso dire? Meno male. Ragazzi, ditemi un'altra cosa. La notizia dell'allontanamento del motorista della Ferrari Lorenzo Sassi, che significa, Leo? Guarda, io qui potrei citare un famoso brano di quando io e Minardi andavamo a ballare insieme in un nightclub di Cesenatico 50 anni fa. Sassi, virgola, che il mare ha consumato. Non ricordo quale cantautore fosse, se era Gino Paoli o chi aveva scritto questo pezzo. Sì, credo Gino Paoli. Ma io, guarda, penso che si tratti di una decisione di Marchionne, perché in Ferrari adesso decide tutto il presidente. La si può leggere in due maniere, dato che ufficialmente la Ferrari non ha comunicato nulla. Uno, siccome Marchionne è un sostenitore dell'interscambio tra produzione e corse, per dire, pochi mesi fa ha spostato l'aerodinamico ingegner Cardile dal prodotto di serie all'aerodinamica in Formula 1, no? Allora la si potrebbe interpretare come dire: Sassi ha lavorato sicuramente bene sul motore ibrido, la Power Unit della Formula 1. In Fiat Chrysler hanno il grande problema della motorizzazione ibrida e allora vogliono avvalersi della sua competenza. Però questo faccio fatica a pensare che possa essere credibile. Evidentemente, così vediamo la seconda spiegazione, c'era qualcosa che non funzionava dal punto di vista presidenziale per prendere questa decisione a proposito di Sassi, virgola, che il mare era consumato. La vedo un po' complessa. Luigi da Bologna, no, sentiamo prima Giancarlo Minardi sul tema, poi rispondiamo a un ascoltatore. Ma io credo che sia un momento di confusione questo. Sì? Pochi mesi fa io sono stato redarguito dal dottor Marchionne, perché proprio in seguito a un articolo fatto da Leo Turrini mi ha additato dicendo: lei è un tifoso molto critico nei confronti della Ferrari. Io ho cercato di spiegare perché ero critico, e una delle cose che e lui mi ha detto che avallava il mio pensiero, era quello di creare un gruppo giovane, di lasciarlo lavorare tranquillo nel bene e nel male, perché per creare un ciclo bisogna lavorare dei mesi se non degli anni, e lasciarli lavorare tranquilli. E lui mi aveva dato una pacca sulle spalle dicendo: ha ragione, è quello che sto facendo. Mi sembra che questa sia una decisione, se non viene spiegata, se non viene con un comunicato, come Leo sottolineava, per una scelta strategica all'interno della Ferrari o del gruppo FCA, mi sembra una manovra di nervosismo che può essere creata anche da problemi che sono fuori dalla Ferrari, ma che fanno parte del lavoro che fa il dottor Marchionne. Può essere dal nervosismo di una situazione di piloti che forse sta un po' sfuggendo di mano, e di una situazione che va chiaramente in questo momento verso una riconferma, a mio parere, ma l'ho sempre detto, che la macchina da battere è la Mercedes, della Mercedes verso il mondiale. Quindi questo, secondo me, è un atto forse che può aver portato in seno a delle riunioni aziendali, a degli scontri. Io preferirei venisse fatto chiarezza da parte della Ferrari. Va bene, grazie Giancarlo, alla prossima. Grazie a voi. Io mi scuso con Luigi. Giancarlo. Mi scuso con Luigi da Bologna, ma siamo fuori tempo massimo. Accidentaccio. Leo Turrini, sentiamo presto. A più tardi lunedì. Anche perché qui ti do le ultimissime, mancano 100 secondi e i due reprobi sono sempre divisi da un decimino. E quindi ripeto, grandi sportellate dietro l'angolo. Le aspettiamo domenica. Le aspettiamo domenica. Lunedì ne parliamo, ovviamente. Grazie Leo, abbraccione, ciao, baci, ciao, salutiamo tutti i nostri ascoltatori. tutti convocati, weekend sospeso fino all'inizio del campionato della nuova stagione calcistica. Ci sentiamo dunque lunedì, tutti convocati, qui alle 2. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Ravezzani in redazione. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.